vedevi cavalcati nelle una pioggia bianca. Ieri, oggi e il domani, una luna stanca. 4 miglia oltre il ponte c'è la frontiera. Un posto di blocco blocca anche l'aria che si respira. Fuori da ogni schema esiste un altro mondo. Per vedere non ti faranno mai uno sconto. Non ci sono treni né bussole in ritardo. Ma allora per quale motivo hanno ucciso il figlio? Pastori della montagna cantano a valle una musica iraniana da Hebron a Betlemme. Molti crederanno volare come piume sul mare, ma resteranno inchiodati alla luce del sole. Il vero senso dell'amore, ogni tipo di amore, è di andare oltre quello che si può percepire. Israele, faresti bene a smetterla di calpestare la dignità altrui. C'è un limite da rispettare. Nevicava catinelle oltre ogni misura. Gli architetti dello spazio non hanno mai paura. Tracciano galassie su carte celesti navigli. Interstellari gozzi tra galattici scogli. La conoscenza è data a chi la cerca senza remore, a chi non guarda nelle tasche degli altri, a chi non rompe le scatole, a chi non fugge dal proprio unico destino, a chi disperatamente cerca di restare un uomo. Pastori delle montagne cantano a valle una musica iraniana da Hebron a Betlemme. Molti crederanno volare come piume sul mare, ma resteranno inchiodati alla luce del sole. Il vero senso dell'amore, ogni tipo di amore, è di andare oltre quello che si può percepire. Israele, faresti bene a smetterla di calpestare la dignità altrui. C'è un limite da rispettare. Nevicava catinelle oltre le mura di una Gerusalemme imprigionata da profeti senza patria, dall'anima senza memoria, da chi vorrebbe cancellare la storia dalla storia. Restano in piedi i sogni di chi crede, restano in vita le persone che hanno fede. Resta ancora molta strada da attraversare, molti morti da resuscitare. Pastori dalle montagne cantano a valle una musica iraniana da Hebron a Betlemme. Molti crederanno volare come piume sul mare, ma resteranno inchiodati alla luce del sole. Il vero senso dell'amore, ogni tipo di amore, è di andare oltre quello che si può percepire. Israele, faresti bene a smetterla di calpestare la dignità altrui. C'è un limite da rispettare.